quel barrier io fossi, se il mio sogno si avverasse. L'esercito di prodi da me fui fatto, e il pianto diventi tu, e a te mia dolce Aida vorrei darti l'oricinto, dirti per te pugnata, per te e dolci prezze del padre.